1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17 minuti, eccoci cari ascoltatori, vi ricordo che oggi staremo e ci concentreremo dalle 8:15 con ospiti sulle due notizie principali dai giornali. Certamente parleremo un po' del dopo Napolitano, avremo ospite l'onorevole Giarrusso del Movimento 5 Stelle, parleremo però anche del dopo Parigi, con noi ci saranno Massimo Fini del Fatto Quotidiano e ci sarà con noi anche Suad Sbai. Parleremo anche di questa rivendicazione che è venuta dal Qaeda per questi attentati a Parigi. Massimo Fini da alcuni giorni scrive, ed è anche spesso il nostro ospite, questi attentati non sono che la risposta alle nostre guerre di aggressione in Afghanistan, in Iraq, in Libia e chi più ne ha più ne mette, e quindi sono in qualche modo risposte da attendere, sempre molto molto preciso nelle sue analisi che fanno discutere. Massimo Fini sarà con noi insieme a Suad Sbai, che la pensa assolutamente in modo diverso, per discutere di queste vicende parigine che riguardano tutti noi. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 15 gennaio, come potete immaginare, le aperture sono tutte dedicate alle dimissioni di Giorgio Napolitano da capo dello Stato. Napolitano lascia, parte la corsa, così titola Il Sole 24 Ore in prima pagina, mentre il Corriere della Sera mette una frase del capo dello Stato ai suoi collaboratori nel congedo: ho sorriso poco, scusatemi. Questo è il titolo di prima pagina. Repubblica, nuovo presidente a fine mese, questo è ciò che promette Renzi. Il Messaggero, Napolitano lascia, Renzi apre i giochi. Per il Giornale invece, brutto presagio, un PM presidente, perché in questo momento di vacanza, nel senso di potere vacante al Quirinale, i poteri vanno al numero due dello Stato, cioè il presidente del Senato Grasso. Libero, in Vaticano con il coltello. Questo è un titolo che vedremo subito tra poco. Sicurezza con la Brodo, un esperimento di Libero. Si è infiltrato un cronista, per la verità il vice direttore Franco Bechis, con un coltello nella Basilica di San Pietro. La Stampa, la lista di Renzi per il Quirinale. Mentre il Fatto Quotidiano, tutti pazzi per Charlie, il Fatto Quotidiano che ieri è uscito in edicola con in allegato Charlie Hebdo, e oggi e anche pare per alcuni giorni continuerà questo esperimento, e dunque anche oggi troverete il Fatto Quotidiano in edicola con Charlie Hebdo e torna dunque su questa vicenda. Mentre il Manifesto mette la foto di Napolitano, il titolo è Era. Avvenire invece, Napolitano lascia, ora corsa al Colle, anche il nuovo quotidiano di Mario Dinolfi, La Croce Quotidiano, apre su questo. Quirinale, le idi di gennaio, questo è il titolo di prima pagina. Voglio però partire da che cosa? La sicurezza in Italia. Appunto, Libero ha fatto questo esperimento, queste cose che fanno abbastanza discutere, no? Franco Bechis ha preso un coltello da cucina con lama affilatissima in ceramica, se l'è messo sotto la giacca, è andato ai controlli in Vaticano, è entrato ed è entrato nella Basilica di San Pietro. E scrive Libero, ecco qua, malgrado la massima allerta per potenziali attentati islamici, siamo entrati nella Basilica di San Pietro armati di una lama uguale a quella usata in diversi omicidi. Ai varchi di controllo nessun problema, tutto filmato, tutto messo anche online sul sito di Libero. Franco Bechis dice tutto in sicurezza, nel senso che abbiamo poi filmato quando ci siamo tolti il coltello nella basilica senza farci vedere da nessuno, in modo da non scatenare il panico se non ci avessero riconosciuto, come sarebbe stato certo. Ecco qui, in prima pagina e poi a pagina 3, come entrare in Vaticano con un coltello in tasca. I metal detector non hanno rilevato la lama, i varchi di Piazza San Pietro sono poco presidiati. Portare armi in basilica, insomma, è possibile a chiunque. E vabbè, questo l'esperimento di Libero. Invece quello che è successo ieri a Fiumicino è ancora un po' da accertare, un po' forse è un millantato allarme, forse un equivoco. Sta di fatto che ieri un passeggero sloveno a bordo di un Roma-Vienna ha scatenato letteralmente il panico. Bomba a bordo, panico a Fiumicino, pagina 17 di Repubblica. Uno sloveno con un telecomando a bordo della compagnia Niki diretta a Vienna, quando era ormai in fase di rullaggio, dunque quando si stava a preparare al decollo, 81 passeggeri a bordo, 6 membri dell'equipaggio. A un certo punto, racconta Repubblica con Federica Angeli a pagina 17, una coppia di viaggiatori italiani si accorge di un uomo accanto a loro con in mano un congegno elettronico della forma strana. Questo signore dice: è un contapassi, quello che si usano per andare a correre, e però aggiunge una frase in inglese che i due italiani colgono così: è con questo che farò saltare in aria l'aereo. Ha detto questa frase? È stato equivocato, come dice lui una volta che è stato arrestato? Sta di fatto che questi italiani ovviamente sono piombati nel panico, si sono alzati, sono andati e tutti in fase di rullaggio, quindi l'aereo stava quasi per decollare, sono andati da un assistente di bordo e gli hanno detto questa cosa, ovviamente tutto sospeso. L'uomo arrestato dice: non mi hanno capito, nega tutto, è stato arrestato per procurato allarme. Alla fine non c'era nessuna bomba a bordo, questa è la cosa che conta, però certo il caos a Fiumicino si è scatenato e così tra l'altro fermato a un certo punto pare che abbia anche urlato: c'è una bomba a bordo, l'ho messa nel bagaglio. Questo racconta invece come dettaglio il Messaggero. Non si sa come siano andate a fondo le cose, ci sarà un'indagine, ma questo testimonia anche il clima davvero di grande tensione che c'è e succede sempre quando ci sono questo tipo di attentati. Voglio andare invece però su cose un po' più concrete. Oggi Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera fanno un intervento di due pagine per analizzare le spese dei municipi, e c'è davvero di che arrabbiarsi anche in questo viaggio che trovate a pagina 32 e 33 del Corriere della Sera. È un'inchiesta sulle spese dei comuni. Un sito web mette a confronto i bilanci delle amministrazioni per dire perché Pomezia sborsa per la cancelleria 1.400.000 euro, mentre Micigliano spende 356 euro pro capite in parcelle di avvocati. Ci sono delle spese che effettivamente balzano all'occhio come abbastanza inspiegabili, scrivono Rizzo e Stella, varie, eventuali e generiche. Manca solo questa dicitura nelle voci dei bilanci dei comuni italiani, per il resto c'è tutto, con leggende così fumose che ti chiedi: ma cosa diavolo c'è sotto? Per esempio alla voce rimborso anticipazioni di cassa, cioè 4 miliardi e mezzo di euro, come l'IMU sulla prima casa. Lo rivela un nuovo sito da oggi online, dove i cittadini possono finalmente confrontare quanto spendono per le stesse cose, dalla cancelleria alle piante da vivaio, gli 8.000 municipi italiani. Alleluia, scrivono Rizzo e Stella, purché questo lavoro straordinario venga aggiustato con l'obbligo di uscire dall'indefinito da troppe voci. È un pozzo senza fondo. Il sito è questo: soldipubblici.mgpf.it. MGPF, cioè Milano, Genova, Palermo, Firenze. soldipubblici.mgpf.it. Navighi un po' e ti poni domande bizzarre. Con chi sono in guerra a Micigliano, provincia di Rieti, per spendere in liti e patrocinio legale 356 euro pro capite, visto che al comune di Pisa spendono un centesimo pro capite per la stessa cosa? Ci sono addirittura migliaia di municipi dove spendono zero. Evidentemente non hanno cause. Oppure quali animali si sono comprati a Barengo, in provincia di Novara, per spendere 26 euro a testa per ogni cittadino per la gestione animali, mentre invece a Nocera Inferiore spendono 2 centesimi per cittadino? E cos'è questo Global Service che ha fatto scucire al comune di Spoleto 217 euro per ogni cittadino? A Pavia, zero invece per questo Global Service. Insomma, ci sono delle voci e delle differenze che fanno pensare. Certo, non è tutto, non è che ogni comune le spese devono essere uguali, però ci sono delle discrasie effettivamente esagerate. Per esempio, torniamo ai 4 miliardi dei rimborsi anticipazione di cassa con cui si iniziava l'articolo. Metà di quanto i comuni hanno speso nel 2014 per gli stipendi del personale, cioè un totale di 9 miliardi. Metà rimborso anticipazione di cassa. Come sono stati impiegati? Non lo sa nessuno, tranne i cassieri municipali. Si tratta infatti di somme loro affidate per pagamenti in contanti dei quali non esistono riscontri immediati. Ci saranno magari il mese successivo, quando si scoprirà se sono stati usati ad esempio per viaggi, per formazione professionale, o si capirà magari per intuizione dal rendiconto di bilancio, ma la classificazione non dice nulla di più. Insomma, una follia, visto che la trasparenza esclude zone grigie. Vabbè, comunque, due pagine di analisi comune per comune. Il paese più piccolo d'Italia, per esempio, Pedesina, in provincia di Sondrio, conta 12 consiglieri su 33 abitanti. 12 su 33. Solo per le indennità spendono 9.358 euro. Non so se al mese, accidenti, vabbè, Pedesina, vabbè, ma siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata. Ebbene sì, subito diranno, ecco le polemiche qualunquiste, è un modo per entrare negli articoli approfonditi che faremo dopo la pubblicità sulla vicenda Giorgio Napolitano. Ecco, ma l'articolo che mi fa pensare lo troviamo proprio su Libero, con Tommaso Montesano, che racconta pagina 8, dal titolo "A Re Giorgio resta la corte con autista e maggiordomo". Come vivrà ora Napolitano, senatore a vita ovviamente? I mezzi non gli mancheranno, una trentina di persone come staff, benefit, auto con autista, guardarobiere, addetto alla persona alias maggiordomo, 15.000 euro netti al mese di stipendio, un ufficio da 100 metri quadri a Palazzo Giustiniani, l'auto con telefono e autista, privilegio che in futuro continuerà a essersi riservato a sua moglie Clio e al loro figlio primogenito, staff di segreteria del Senato, 3 dipendenti del Quirinale distaccati e le risorse strumentali, telefono cellulare, satellitare, fax, linea telefonica urbana protetta, linea per collegamento diretto per il Quirinale, linea per il contatto con la batteria del Ministero dell'Interno e i servizi di sicurezza dello stesso Viminale. Vabbè, pubblicità. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il Rossello Brescia dell'informazione. Non è male, non è male. Un grande abbraccio come sempre a Rossella Brescia. E allora siamo qui a parlare delle almeno 11 pagine che Corriere Repubblica, altri giornali dedicano meno, 11, le prime 11 su Corriere Repubblica per l'addio di Giorgio Napolitano. Un momento importante, epocale, storico certamente per la Repubblica Italiana, dopo due settennati, il secondo dei quali, come sapete, si è concluso in 2 anni, appunto con le dimissioni anticipate di Napolitano. E che dire, gli articoli, la cronaca, ho sorriso poco, scusatemi, questo è quello che ha affidato ai suoi collaboratori nel saluto, nel congedo, come racconta Marzio Breda, pagina 2 del Corriere della Sera, scusatemi se mi sono sembrato o se proprio non sono stato abbastanza sorridente con voi. Sappiate però che vi sono davvero grato, vi avrò sempre cari per l'aiuto che mi avete dato in questi anni straordinari e mi hanno cambiato molto in profondità. Questo è stato il congedo con i collaboratori del Quirinale da parte di Giorgio napolitano, scusate se non ho sorriso abbastanza. Ci sono interviste dei suoi più stretti collaboratori, dei suoi consiglieri, vi segnalo quella ad Arrigo Levi a pagina 6 del Corriere della Sera, che ricorda come nel 2013, quando doveva essere rieletto, visto che non si trovava un'alternativa, racconta Arrigo Levi: sono arrivato a casa sua, mi presentai poi al Quirinale nel suo studio per sentire cosa pensava delle tante pressioni dei partiti, ma non solo, perché restasse al suo posto, e gli chiesi: ma se insistono come fai a dire di no? E lui, di solito molto misurato, quel giorno ebbe uno sfogo, buttò sul tavolo un plico di referti medici e mi disse: allora non hai capito? Non sai che non sto bene? Che ho altro a cui pensare? Ecco perché sono indisponibile. Poi però, due giorni dopo, si sentì obbligato a cedere e cambiò idea, sciolse la riserva, fu rieletto, da allora sembrò dimenticare tutto, si rimise al lavoro e non ho mai più udito dalla sua bocca neppure un cenno alla stanchezza o alle preoccupazioni personali, tantomeno alle polemiche venute dopo. Dice Arrigo Levi: sono persone, lui come Ciampi, di una stoffa particolare, appartengono alla generazione dell'antifascismo e se si fosse sottratta a quella chiamata nel nome della patria avrebbe vissuto il proprio ritiro come una diserzione. Così Arrigo Levi parla di Giorgio Napolitano. Però insomma è inutile, già i giornali sono proiettati non all'addio di Napolitano ma a ciò che verrà e a colui o colei che verrà. Da qui al 31, giorno secondo il quale per Renzi avremo il Presidente della Repubblica, la prima seduta del Parlamento Unito per la votazione del Presidente sarà il 29 di gennaio. Da qui a quella data sarà un elenco di nomi, il Borsino, il Toto Quirinale, il Toto Nomine, Amato che sale, Prodi che scende, Veltroni che sta lì, Cassese su, Mattarella giù, Finocchiaro forse, ne ho citati alcuni di quelli che sono tra i più papabili, Gianni Letta. Insomma, Renzi assicura il nuovo presidente a fine mese, ieri era da dare a Bignardi alle invasioni barbariche, dice se ci sono la logica delle bandierine, dei veti incrociati, ce lo votiamo da soli, cioè basta mettere veti. E Francesco Verderami sul Corriere a pagina 9 racconta che la strategia di Renzi è quella di semplicemente far credere che tutti siano candidabili, che tutti siano quirinabili. Per cui a Casini non ha opposto veti all'ipotesi di un esponente dell'area moderata al Quirinale. A Del Rio ha detto tu saresti il mio ideale. Tranne Cantone, per il quale pubblicamente ha detto Renzi ha molto da fare l'autorità anticorruzione, la strategia, secondo Verderami, di Renzi sarà far credere a tutti che hanno una possibilità. Insomma, avere questo atteggiamento molto democristiano per poi arrivare a dire il nome proprio a ridosso della prima votazione. Berlusconi dice: senza di noi non passa nessuno. Ieri in una occasione pubblica nella quale tra l'altro ha anche promesso di dare 20.000 euro a un'anziana che sul palco ha raccontato la propria storia di povertà, le darò 20.000 euro, ha detto Berlusconi, ma poi sulla vicenda Quirinale dice non passeranno, serve un presidente che non abbia ostilità nei pregiudizi nei nostri confronti, l'abbiamo fatto sentire anche alle 6.30, basta, dopo tre presidenti comunisti non ce ne può essere un quarto comunista. È tutto così, pensate che in questo Toto Nomine Repubblica va a sentire il parere di Francesca Pascale, intervistata da Concita Sannino, la fidanzata, è ancora fidanzata evidentemente, di Silvio Berlusconi, dopo che si era parlato di una separazione della coppia. A pagina 9 di Repubblica esordisce così: di Giorgio Napolitano devo essere finta, diplomatica, ipocrita o devo dire cosa ne penso? Beh, Repubblica dice possibilmente no, dica quello che pensa, rispettosa sì, ma dica quello che pensa. Allora dico che apprezzo tantissimo solo il fatto che sia nato e cresciuto nella mia stessa città, per il resto un disastro. Questo è il giudizio politico pregnante che passerà nei libri della storia di Francesca Pascale alla presidenza Napolitano. Penso che non abbia rappresentato tutta l'Italia e che non l'abbia amata tutta. E poi sul Toto Nomi, dico Letta. Letta, Gianni Letta, Casini o Amato? Questa è la terna per Francesca Pascale. Ma se parlassimo di una donna, Anna Finocchiaro, mi piacerebbe. Il suo presidente che dice, ma non scherziamo, sta sull'altro schieramento, ovvio, però è elegante, il che non guasta, è una donna di carattere, indipendente, con la sua storia. Ma insomma, si potrebbe leggere tra queste sue parole che non avete una del profilo del genere nel centrodestra. E Francesca Pascale conclude così, guardi, già mi massacreranno, vuole che non ne esca viva? No, no, per carità, aggiungiamo noi. Ma cambiamo argomento, tanto di questo lo sentiremo parlare moltissimo, cioè della vicenda Quirinale. Voglio però concentrarmi su quello che Mario Draghi ha detto, come racconta il Sole 24 Ore, come racconta tutti i giornali e come potete leggere su Repubblica, che riproduce integrale l'intervista del presidente della BCE a Die Zeit, giornale tedesco, peraltro diretto da un italiano, Giovanni Di Lorenzo. È un'intervista nella quale Draghi parla del suo rapporto con la Germania, del quantitative easing, del rapporto con i paesi. Dice tante cose interessanti, lo leggo su Repubblica, a cominciare da questa. Le viene mai da pensare che in Germania lei, Draghi, è il personaggio pubblico meno compreso in assoluto? Dice, credo proprio sia vero. Ma la mia posizione è semplice. Noi abbiamo il compito di garantire la stabilità dei prezzi. La BCE è stata istituita nella tradizione della Bundesbank. Ma non tuteliamo un paese, bensì 19. Siamo responsabili per 19 paesi. Il messaggio che alcuni in Germania devono comprendere. Mi faccia dire chiaramente una cosa, la politica della banca centrale non penalizza i risparmiatori tedeschi, nemmeno compensa i paesi deboli. Il mandato della BCE è un tasso di inflazione appena sotto il 2% per l'intera Europa. E per conseguirlo bisogna tenere bassi gli interessi e puntare a una politica monetaria espansiva. Questo è il punto, cioè non punire o ricompensare. Ma qualche volta è difficile spiegarlo in Germania. Le dicono che per esempio lei così facendo disincentiva i paesi a introdurre riforme. Il nostro compito non può e non deve consistere nel farci carico delle riforme che vanno intraprese dai singoli governi. Ce ne manca per ultimo la legittimità democratica. Crede che i risparmiatori tedeschi se la passerebbero meglio se cercassimo di aumentare il tasso di interesse? Chiede Draghi. Ovviamente la risposta, dico io, è no. E poi ancora sull'acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE, per cui voterà la BCE settimana prossima, non ho mai detto che investiremo 1.000 miliardi, ho soltanto citato come valore indicativo il volume di bilancio che la BCE aveva all'inizio del 2012. Parla anche in questa lunga intervista dell'accusa di sentirsi un agente dei paesi del sud, traduciamo dell'Italia oltre che della Francia, questa accusa mi pesa e non vorrei alimentare ipotesi di me al Quirinale, naturalmente è un grande onore ma non è il mio lavoro. Così Mario Draghi e saluto Mauro Meazza. Ti piace oggi l'associazione, eh? Ah, ma allora ti ha scritto il mio avvocato. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Finalmente, insomma, no, fin troppo per carità, non meritavo tanto, però capisco che la tua è una captatio benevolentiae per evitare guai giudiziari più grossi. Certo. Vabbè, e allora si dice et parva, no scusa, insomma, se è lecito confrontare cose così importanti come quella di Mario Draghi con la mia persona, ti segnalo un paio di cosette, insomma, ma cosette anche abbastanza importanti che abbiamo sul Sole 24 Ore, oltre a questa posizione di Mario Draghi e naturalmente all'attesa per il quantitative easing, per l'acquisto dei titoli di Stato che ci aspettiamo settimana prossima. Aumentano i voli Italia-Cina? Non so se è importante questa cosa, sì. In vista dell'Expo c'è un aumento dei voli Italia-Cina, tra l'altro con un coinvolgimento importante anche per Alitalia. Ti spiega tutto Rita Fatiguso, non sulle pagine di norme e tributi, ma sulle pagine invece di economia italiana, di impresa e territori. Ti vorrei anche dire che c'è un ritorno di interesse per gli affitti a canone concordato. È quel canone che ha degli importi più bassi, viene fissato grazie ad accordi locali, non c'è purtroppo, non è disponibile purtroppo in tutti i comuni italiani, ma consente anche di pagare meno tasse. Come faccio a sapere tutto questo? Ti chiederai. Leggo le pagine di Casa 24, oggi sul Sole 24 Ore. Poi mi dovresti un attimo lasciare un attimo di stacco, perché qui Radio Fisco. Ah, attenzione. Abbiamo il dato del TFR di dicembre. Basta. Chi deve capire ha capito. Deve capire ha capito, Alessandro, non ti preoccupare. E poi ti volevo segnalare una sentenza della Corte di Giustizia che secondo me farà un po' di pasticci. Dunque, hanno detto che è lecito che uno Stato dica che le corsie preferenziali le possono percorrere i taxi, ma non le auto noleggio con conducente. Gli NCC. Gli NCC, questo è stato detto per quanto riguarda la Gran Bretagna, però, come dire, siccome in tutta Europa c'è una certa agitazione tra i tassisti e gli NCC, sì, mi sembrava doveroso rimandarti alle pagine, questa volta sì, di norme e tributi, per segnalarti tutto questo. E poi guarda che sta arrivando la firma dell'accordo Italia-Svizzera, scalda i due urini, sì, tirali fuori dal freezer. Va bene. E allora tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico. Peter Bescapé e Alessandro Milan, il Bud Spencer e Terence Hill dell'informazione. Ok, eccolo lì. Ciao Bud, tu sei Bud Spencer ovviamente, caro Peter. Allora, parleremo ancora del dopo Francia, c'è stata questa rivendicazione da parte di Al-Qaeda nello Yemen. Proverrebbe la rivendicazione principe da al-Zawahiri, cioè il numero 2 di Osama Bin Laden, ve lo ricordate? E a parte questa rivendicazione, gli articoli che più mi hanno colpito sono, per quel che riguarda l'allarme in Italia, ciò che scrive la stampa con Grazia Longo: tornati in Italia 10 jihadisti, sono pronti a fare attentati. Questo è il titolo. Questo dicono i servizi segreti, sono parte di quel gruppo di 53 foreign fighters che erano stati controllati e che erano andati all'estero a combattere, soprattutto in Siria. 10 di questi sarebbero rientrati in Italia. Questo almeno fanno sapere i servizi segreti. A questo proposito, Fiorenza Sarzanini racconta sul Corriere della Sera la storia di uno di questi possibili foreign fighters che poi, per in realtà, si è pentito. Fiorenza Sarzanini, pagina 23, eccolo qui, la voce di Jelassi Riad, una voce di dentro, colui che dice il terrorista fa una vita a doppio senso, fa la vita del terrorista ovviamente, ma fa anche una vita normale, va al lavoro se ce l'ha, anzi è preferibile avere un lavoro come copertura, poiché l'extracomunitario che lavora e contribuisce allo Stato è apprezzato. Le confessioni di questo Jelassi Riad, che era stato reclutato per diventare un combattente e che poi si è pentito, sono alla base di un'inchiesta del ROS per cercare di snidare coloro che reclutano appunto persone per trasformarle in potenziali terroristi. Racconta del lavaggio del cervello. I gruppi di 4-6 persone hanno un legame con altri, ma non si incontrano mai. Si incontrano al limite nelle moschee. Nelle moschee c'è questo lavaggio del cervello, filmati, proiettati per ore, come Al-Qaeda Training, Allah Akbar, l'amante del jihad, Taliban Mujahideen, tutti con immagine originale dei combattimenti. Riad racconta che le sue guide insistono nel spiegarti e nel parlare della morte, che diventa così un trauma, un'ossessione, ti fanno diventare la vita un inferno, non c'è via di uscita che la morte. Anche un altro pentito, Shokri Zuai, parla esplicitamente di lavaggi del cervello. Ho detto al mio avvocato: adesso che sai tutto, ti garantisco una cosa, impara l'arabo, ti mando 2 settimane in mezzo a loro e fammi vedere se non sei convinto di uccidere anche tu. Insomma, inquieta questo reclutaggio che viene raccontato attraverso le storie di queste persone sul Corriere della Sera. Mentre invece c'è stato un trionfo per Charlie Hebdo, comprato in tirato ieri in 5 milioni di copie, è andato esaurito, c'erano edicole in Francia che alle 7 del mattino non avevano più Charlie Hebdo, e anche in Italia, tanto che il Fatto Quotidiano, che ieri è uscito in allegato aveva in legata 2 euro. Charlie Hebdo ha deciso di replicare anche oggi. Anche oggi e forse anche nei prossimi giorni, insomma, torna in edicola per chi non li ha trovati, ancora oggi, insieme al Fatto Quotidiano, Charlie Hebdo. Tanto che per la verità la stampa racconta, per esempio, che la sicurezza attorno alla redazione del Fatto Quotidiano è aumentata. È aumentata perché ovviamente dopo l'uscita di questa rivista nuovamente ci sono state anche delle dichiarazioni, per esempio dall'Egitto una fatwa da parte di un imam che dice questo Charlie Hebdo comporterà ancora odio, nuova ondata di odio dopo questa rivista. A proposito di libertà, reato, di odio, di arresti, è stato arrestato ieri in giornata e poi liberato in serata Dieudonné, il comico considerato antisemita che aveva detto questa frase su Facebook: Je suis Charlie Coulibaly, mettendo insieme Charlie Hebdo e Coulibaly, uno degli attentatori. È stato arrestato, poi rilasciato per apologia di terrorismo e andrà a processo il prossimo 4 febbraio. Va bene, approfitteremo, approfondiremo alle 8.15. Mi ha incuriosito, per tornare all'Italia, alcune notizie di cronaca. Vediamo quella che riesco a leggere. Questa certamente. Super Enalotto, il giallo del bar dei miracoli. Attenzione, attenzione. Succede che a Montepaone, un paesino di 4.000 anime in provincia di Catanzaro, è avvenuto un miracolo, hanno vinto al Super Enalotto con 6 numeri e vabbè, hanno centrato 4,3 milioni di euro. Una probabilità su 622 milioni, dice la statistica, succede. Quello che non succede è che 2 giorni dopo, nello stesso paese, nella stessa via, rivincono una sestina. E anche i sospetti iniziano. Piccolo paese calabrese, 2 vincite record, racconta Andrea Bassi sul Messaggero, un 6 e un 5 stella nel giro di 48 ore. La probabilità di un simile evento è una su molti miliardi, al che la Sisal ha mandato gli ispettori. C'è l'ombra degli hacker e c'è il timore, quasi la certezza per la Sisal, che qualcuno sia riuscito a fare qualche truffa. Staremo a vedere. Ma siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, ma è chiaro, quando tu devi scrivere 11 pagine su Napolitano, poi arrivi anche a questo. Anna Rita Cillis su Repubblica, quando il vicino di casa di Napolitano, Davide Semenza, racconta quando mi incrociava e mi prendeva in giro per i tatuaggi. L'ultima volta che l'ho incrociato qui nel palazzo mi ha rimproverato per i tatuaggi e mi faceva le battute, mi ha guardato e mi ha chiesto: quanti te ne sei fatti di tatuaggi? Ma chi se ne frega!